diroccate con cura e azzurre per vastità di cielo tra gli squarci, le case che sognavo inutilmente al sole di una nuova creazione. Nel puntiglio dei rovi rampicanti, libertà di stridi e cinguettii, battibecchi di merli e capinere, ronde di petti rossi nel canoro grembo di una pergola sbilenca.